You're listening to Rock FM. Pane, burro, rock and roll, buona giornata anche ai secondi mezz'oristi. If you have a problem, avete problemi? If no one else can help, se nessuno può aiutarvi, maybe you can hire the A-team. Potete cercare l'A-team oppure ascoltare PBR. Pa pa pa pa pa pa. 335-100-7777, siete i benvenuti al nostro SMS, ariel@radiorockfm.com, vi accompagniamo noi al lavoro, a scuola. Saluto un'amica che commenta, oggi compito di matematica, trombetta, ecco qua. Il suo pensiero è però, che cavolo, io lo dicevo che bisognerebbe andare a scuola alle 9.30, ma nessuno mi dà retta, ma guarda. Sai che ti capiamo, perché molti tra l'altro concorderebbero con te. Questo amico ieri non ha, non ha lavorato, si è perso pane, burro, rock and roll, però stare a casa a far niente è fico, dice, vabbè. Questa è la nuova avventura, la nuova sfida fino alle 9 di quest'oggi. Io questi messaggi sullo spot del liscio, ragazzi, non so veramente più come gestirli, ma ci occuperemo anche di questo. Tra l'altro, se fino a ieri avevo intenzione di farvelo sentire, dopo averlo visto è inutile farvelo sentire, bisogna vederlo. Quindi ripeto, cercheremo il modo di postarlo sul nostro sito, se no non si combina niente. Sapete come si inizia la seconda mezz'ora? Così. Yeah. Scioccando la scimmia. Shock the monkey. Peter Gabriel. Ah. Lascia acquarsi la bocca. miracolo di una nuova mattina da vivere insieme a colui che ha scritto pagine indimenticabili della storia musicale italiana, Roberto Fricantoni. Che incipit, che inizio. Io sono sinceramente basito. No, non si basisca, signor Antoni, perché andrei con la rubrica dei compleanni del giorno del 18 di marzo. Complimenti, che scioltezza! 1945, una clip sonora, prego! Non c'è più niente da fare. Sentitelo, signore, l'intonazione. È stato bello sognare. Che roba. Un grande amore sincero. Ho la pelle veramente da... Ho la mochetta sulle braccia. Ed un felice futuro da vivere. Va bene, grazie. Auguri di compleanno con te. A Bobby Solo. Ricordate questa meravigliosa interpretazione di Roberto Fricantoni. Mentre 1947, Barry Wilson, batterista dei Procol Harum. E Walter Shane. Shade of Pale, Watershed of Pale, grande canzone, capolavoro, grande smorzone, lento, quello che veniva definito lo smorzone. Lo smorzone mi piace molto. Il lento degli anni 60. Sì, da Balera. Sì, esatto, grandi Procol Harum. Proseguiamo, che è meglio, 18 di marzo 1953 nasceva Ivan Cattaneo. Allora, buongiorno, lasci stare. Faccia battute su Cattaneo, per favore. Non posso dire nemmeno che è ora di smetterla con questi invertebrati. Ecco. No, al massimo invertiti. Invertiti, invertebrati. Maestro, ho letto male. Per favore. Chi scrive questo? Ringraziamo redazione. Che ci fa una segnalazione curiosa su Bobby Steele, invece. Bobby Steele, che nasceva anche lui quest'oggi, nel 56, chitarrista statunitense, componente di molti gruppi di rilievo, la collaborazione tra cui con i Misfits. Il suo soprannome Steele, ci segnalano, proviene dal fatto che, soffrendo di spina bifida, lo stato di New York lo ha autorizzato all'uso per motivi terapeutici della marijuana. Adesso non è che tutte le volte che citiamo la marijuana lei, signor Antoni, si deve appicciare il cannone in diretta. Non le ho mai parlato di questo mio problema fisico, dottor Aria. Io ho la spina bifida. No, lei ne ha di problemi fisici, ma la spina bifida credo proprio no. Molli il cannone gentilmente e facciamo gli ultimi auguri a Massimo Giletti. Lo spenga. Perché spento, non spento. Potete vederlo, Fricantoni? Accendete una webcam, qualcosa. 1962, Massimo Giletti. Massimo, che dire di Massimo Giletti? Ma niente, ma perché fargli gli auguri, tra l'altro? Sì, insomma, un uomo certamente aplomb. Ecco, io apprezzo il suo aplomb. Il suo aplombismo. Il suo aplombismo un po' rampante, se mi consente. Mitico Massimo. Grande, grandissimo Giletti. Ti seguiamo sempre. Con moderazione, però, esatto. Senza esagerare. Poco. Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Now I'm sitting here. live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, oh, save me, save me, save me from this queen. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime. In the summertime. I Kinks. In the summertime. Sunny afternoon. In the summertime. Sono le 7:42 minuti primi. E questa è Rock FM. Pane, burro, rock and roll. Trasmissione sconvolta ormai da questa segnalazione. Io vorrei smettere di parlare di Tele Lombardia, ma non posso non farlo, perché lo sentiamo dai vostri messaggi che bisogna fare il punto della situazione. Però tra i vari commenti violenti che ho letto al nostro 3351007777 riguardanti questo affronto che ci viene fatto, nel senso che la musica, questo spot televisivo nel quale viene presentato il rock and roll come rumore e il liscio come buona musica, ho isolato un radioascoltatore, si chiama Francesco, 37 anni, operaio di Firenze. Ciao Francesco. Ciao. La sua è una provocazione, perché dice: bravi, tutti bravi a denigrare il liscio, però c'è tanti che vanno a suonare in balera per far suonare su, cioè per tirar su due soldi suonando la chitarra. Certamente, certamente, è verissimo. Tra l'altro ti firmi Fender 71? Sì, sì. Quindi sei un fenderista. Stratocaster o Telecaster? No, Strato, logicamente Strato. Immaginavo, è per quella roba lì Strato per forza. Sì. Telecaster è già un po' troppo. Perché secondo me viviamo una nuova stagione del rock and roll, Francesco, nella quale basta con questa cosa che sempre violenti contro tutto e tutti. La nuova posizione di Pane, Burro e Rock and Roll è che tutto è rock, anche la musica liscio. Certamente. Proviamo a sostenerla questa cosa? Ma io sono d'accordissimo con te. Ci ho fatto tanti soldini e la mia Fender non la compravo senza aver suonato un po' di liscio in giro. Hai capito? Vai in giro a far Smoke on the Water tutto il giorno, mica li tiri su tutti quei soldi lì. E poi si tirano anche le pietre qualche volta, che vogliono il liscio. Esatto. E com'è? Ma sì, insomma, suonare liscio, che te frega, vai lì, fai tru tru tru, anziché un'altra roba, un lavoro come un altro. Suonare è suonare, se d'accordo, ognuno ha i suoi gusti, con gli amici suoni quello che vuoi, fai far suggerire, certo, se non vai a suonare cosa. Il liscio, dai. Poi guarda, da sempre io ho quest'altra posizione, vediamo se sei concorde. La forte caratterizzazione della musica rock rispetto a tutti gli altri generi musicali, secondo me, è che è una musica suonata dal vivo. Certo. Da questa definizione, tirandola un po' per le orecchie, anche la musica liscio comunque vive di orchestra, di balera, di contatto, di ballo. Quindi ha del rock dentro. Sì, aspetta, e poi ti volevo dire un'altra cosa. Sì. Accelerando un po' i pezzi, puoi vedere se... Tenni a suonare liscio nelle balere, è divertente. Certo. Adesso arriviamo a dire che Raul Casadei è il nostro Mick Jagger? No dai, questo è un po' troppo. Spingiamoci così oltre, via. Tra l'altro accennavo comunque a Francesco in fuori onda che tra i tanti messaggi, avendo delle frequenze anche in Romagna, vedo che loro sono i radioascoltatori e le radioascoltatrici che più c'hanno la carogna, ma forse perché, No, questi sono bombardati fin dall'inizio. Esatto, poverini, esatto. Dai. Va bene Francesco, comunque mi piaceva la tua posizione, il liscio è anche un po' rock, secondo me noi dobbiamo controbattere così, perché tra le altre proposte invece, per esempio, c'era questo che diceva, visto che la trasmissione è per un pubblico anziano, lui proponeva di farsi invitare come pubblico della trasmissione spacciandoci come casa di riposo Eleonora Duse e poi quando siamo lì dice facciamo casino. Interessantissimo. È divertente l'idea di spacciarsi come casa di riposo Eleonora Duse, sì. Però poi là, secondo me, Dunque, dai, sosteniamo il liscio, sosteniamo per finanziare il rock. Esatto, bravo. Il liscio ci serve per finanziare il rock. Ottima posizione. Francesco, buon proseguimento di giornata e grazie della testimonianza. Viva grazie la Fender, via. Viva la Fender. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ah sì, basta aggiungerci quel filino di gain, di distorsione, e tutto si trasforma, no? Vabbè, dai, occupiamoci di Queen, che forse è meglio. Another One Bite the Dust. Romagnoli, non ci insultate, eh? Walks fairly down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Poi ci sarà una riforma scolastica nella quale finalmente la cultura bigottona del nostro bel paese finalmente aprirà gli occhi e le orecchie al linguaggio rock. Naturalmente, e ci saranno vocabolari rock, ecco, che finalmente proporranno le parole ribelli. Ecco, noi ne abbiamo uno di vocabolario rock che spesso Frick ci tiene a rimpinguare con un nuovo vocabolo. Quanti ne abbiamo imparati in queste mattine di pane, burro e rock and roll? E quanti forse ancora dovremo impararne? Ma attenzione, perché la parola di oggi è ganghero. Ganghero è una parola interessantissima, vede, certo, viene dal tardo greco e significa anello della porta, ma anche per estensione del significato spalancare la bocca per ridere ad alta voce. Quanta attinenza col nostro programma, no? Quindi uscire dal ganghero vuol dire uscire dallo sguaiato ridere, a voce spalancata, a bocca spalancata, dal alta voce. Incredibile. È un arpione, il ganghero, di metallo, principalmente di ferro, che aggancia e rende girevole una porta o una finestra, uno sportello d'armadio o simili, chi più ne ha più ne metta. Ecco, per cui uscire dai gangheri vuol dire, il modo di dire significa perdere l'aggancio, cioè uscire dal cardine, in pratica della porta che burla giò. Bravissimo, che crolla miseramente se non ha un ganghero. Che la tiene su. Se esci dal ganghero, ti crolla il mondo. Quindi, se perdi il controllo, ahimè, sono guai. E io che pensavo fosse un pesce. Il ganghero. Sì. Ma approfondiremo, può essere. Comunque, grazie per l'insegnamento di quest'oggi. È stato un piacere. Pare burrera che ro, pare burrera che ro. Mazza che ci caga sto programma, raga! sono stati capaci di osare. Hanno fatto un provino per diventare musicisti rock con la bocca. Sono stati temerari. Ma avranno il fattore rock? Pane, burro e rock and roll presenta il primo reality telefonico della storia della radio. Il grande fattore, alla scoperta del fattore rock. Le regole: 1. Alla terza chiamata non risposta sei fuori dal gioco. 2. Se non fai quello che ti ordina il GF sei eliminato. E sarò cattivissimo. 3. Al primo errore sei out. Prossimamente su Rock FM. Posti dove ti senti subito a casa. Rock FM. Dei posti dove tutti i piaceri della vita hanno un sapore unico. Pane, burro e rock and roll. Rock FM. Per darti un po' di festa, tutti i giorni.